get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 220esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che è 338-4146-682, che rimarrà attivo soltanto fino alla fine di questa trasmissione. Vi ricordiamo che potete scriverci indirizzando la vostra mail a contatti@clrbp.it oppure, se volete, potete scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, in questa trasmissione siamo presenti qui in studio io, che sono Caterina. Con me c'è anche Lucilla, Rosina e la new entry Stefania, che ci leggerà una cosa che lei ha scritto dopo aver ascoltato il contributo che sempre lei è andata a ripescare, che è molto attinente al tema di oggi, anzi ne è quasi parte integrante. Io direi adesso di fare un breve stacco musicale. Ascoltiamo insieme Mia Martini con la canzone Donna, che è una sorta di anticipazione all'argomento di cui parleremo questa sera. Allora, buon ascolto e ci sentiamo dopo la canzone. Ciao! Quando a casa non tornerai, come avete sentito, stasera riaffrontiamo un tema che... Ma voi lo sentite? Ormai c'è caro, no? Vai. Ora? Vai. Ora? Sì. Allora, stavo un po' parlando a vuoto perché c'è stato un problema tecnico, ma adesso siamo qua e vi salutiamo volentieri. E stasera riaffrontiamo una questione che ormai c'è cara, quella della violenza degli uomini sulle donne. E perché la riaffrontiamo? Perché non perché è sulla breccia dell'onda, come potrebbe dire qualcun altro, ma perché è strumentalizzata e quindi noi vogliamo dire la nostra a questo proposito. Quindi, il governo il 20 febbraio 2009 ha emanato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, anticipando in tal modo alcune misure ancora in discussione in Parlamento ed introducendone di nuove. Il fine del decreto legge, esplicitato dal governo, è, aperte virgolette, ve lo dico perché non le potete vedere, assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto dei delitti di violenza sessuale e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, ad un più articolato controllo del territorio. E con questo, cioè, potremmo anche chiudere la trasmissione qui e andarcene a casa, perché c'è già tutto contenuto, cioè le donne sono vittime e soprattutto dalle all'immigrato. A proposito del decreto antistupro, vi proponiamo alcune considerazioni della giurista Barbara Spinelli che condividiamo come analisi politica. Ci preme ricordare inoltre che questo governo, che oggi si spende così alacremente nella difesa delle vittime, ancora tra virgolette, degli stupri per mano straniera, è lo stesso governo che, appena insediato, ha tagliato ben 20 milioni di euro di finanziamenti per i centri antiviolenza, che invece il precedente governo, per la prima volta, e questo anche va detto, aveva stanziato. Questo per dire che non sono le politiche in favore delle donne che interessano. E adesso Rosina continuerà. Sì, allora, naturalmente ricordiamo che il testo del decreto, del provvedimento, è provvisorio fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nostra Costituzione prevede che il decreto legge possa essere emanato dal governo soltanto in casi di necessità e di urgenza, in quanto soltanto in via straordinaria il Parlamento può cedere appunto all'esecutivo il potere di legiferare. Secondo l'articolo 77, questo caso avviene appunto in casi di straordinari di necessità ed urgenza e viene valutato dal governo sotto la sua responsabilità. La Spinelli, la giurista, sostiene che questi presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione di questo provvedimento siano del tutto insussistenti, e sostiene pure che è faziosa l'imposizione attraverso decreto legge di misure che, per quanto concerne l'allungamento dei tempi di permanenza nei CIE, e cioè i centri di identificazione e di espulsione, erano state bocciate in Senato pochissimo tempo fa. Per quanto concerne invece gli atti persecutori, le misure erano in discussione in questi giorni e stavano per terminare il regolare iter legislativo. Si potrebbe quindi quasi dire che è un caso di appropriazione indebita del potere legislativo da parte dell'esecutivo, al solo fine di rimarcare la presenza del governo nel dettare i tempi dell'agenda parlamentare e batterli sul tempo. Secondo noi, la decretazione d'urgenza tende ad espropriare quindi il Parlamento della sua funzione specifica. Inoltre, fino ad oggi non c'è stata nessuna urgenza a proposito dei femminicidi e della violenza in famiglia da parte di questo, ma neanche degli altri governi, e a significare appunto che i problemi delle donne vengono rappresentati dal potere in maniera strumentale. Ma torniamo alle considerazioni della Spinelli e alle novità che vengono introdotte con il decreto legge. La prima: il reato di atti persecutori e tutte le misure contenute nel progetto di legge approvato dalla Camera. Il decreto legge sembra aver introdotto la pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso in occasione di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo. E sottolineiamo sembra, in realtà infatti è già così. E basta vedere l'articolo 576 al comma 5 del codice penale, per cui non vi è nulla di nuovo sotto il sole in questa disposizione. Arresto Numero 3, arresto in flagranza per i reati di violenza sessuale di gruppo e violenza sessuale, tranne che per i casi di minore gravità. E ci domandiamo, ma quali saranno mai? Il punto 4, si prevede un patrocinio a spese dello Stato per tutte le persone offese dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se hanno un reddito superiore a quello previsto dalla legge per poterne usufruire. Questa ci sembra una innovazione interessante, naturalmente. Il punto 5, innalzamento fino a 6 mesi del periodo di trattenimento in un centro di identificazione per l'espulsione, permanenza temporanea e assistenza dello straniero. Ricordiamo che fino ad ora era di 2 mesi, dell'extracomunitario sottoposto a provvedimenti di espulsione o di respingimento. In questo caso ci sembra di poter dire che non è proprio una cosa nell'interesse delle donne. Inoltre, 100 milioni di euro annui a forze di polizia e vigili del fuoco per predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, e questo ci porta ad un punto più che interessante. Sempre per il governo, non per noi. E il 7 sono le ronde. I sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il prefetto, che ne informa il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana oppure situazioni di disagio sociale. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco a cura del prefetto. Come dire che si autorizza la delazione cara al periodo nazista e fascista. E infine l'autorizzazione ai comuni all'uso di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. I dati, le informazioni e le immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Allora, inoltre si evince dal decreto che in base ad alcune tipologie di reato si può godere o non godere dei benefici di legge. Ora andiamo a vedere in quali casi si può godere o non godere. La norma prevede come aggravante l'associazione a delinquere e quindi la previsione dell'agire di gruppo. Pertanto la Spinelli riporta un esempio. Lo stupratore di una ragazza minorenne, che sia il padre, anche adottivo, il nonno o il marito convivente di sua madre o il tutore o chi comunque abusi dei poteri connessi alla sua posizione nei confronti della ragazza, non sarà condotto al fermo cautelativo, tranne se compie gli atti sessuali con la minorenne non da solo, ma nell'ambito di un'associazione a delinquere. Quindi, diciamo noi, quindi queste sono parole nostre, non più della Spinelli, la giovane, per vedere in carcere chi ha usato violenza, dovrà augurarsi di essere stuprata dall'intero gruppo di maschi di famiglia, nonno, fratello, zio, cugino, padre, anche adottivo, e via dicendo. Infine, per riprendere le parole della Spinelli, è evidente, dice, se viene stuprata la ragazzina 17enne dal genitore o dal convivente della madre, questo uomo per bene, qui metteteci tante virgolette, secondo i ministri legislatori e le ministre legislatrici, compie un reato meno grave. È un delinquente comune e, a differenza dello stupratore sconosciuto, può accedere a tutti i benefici penitenziari. Svista del legislatore, dice Spinelli? Perciò ci viene da considerare che quelli che stuprano in casa e poi vanno a fare le ronde fuori godranno del beneplacito sociale. Peccato. Per l'ennesima volta si riportano statistiche improprie, perché il 70% degli stupri denunciati avviene in casa per mano di familiari ed è il 30% che avviene su strada. E sono rimaste inascoltate le linee guida in materia, le raccomandazioni al governo italiano per l'applicazione della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. E questa era la raccomandazione del CEDAW. Nella raccomandazione numero 32 si sollecita già dal 2005 il governo italiano ad accordare, e girofoglio, un'attenzione prioritaria all'adozione di misure onnicomprensive per affrontare la violenza contro le donne e le bambine. Il Comitato per l'applicazione del CEDAW già allora sottolineava, e qui questo riportiamo quello che sottolineava il CEDAV, la necessità di attuare appieno e monitorare l'efficacia delle leggi sulla violenza sessuale e domestica, di fornire centri d'accoglienza, servizi di protezione e consultori per le vittime, punire e riabilitare i colpevoli e provvedere alla formazione e sensibilizzazione dei pubblici funzionari, della magistratura e del pubblico. Quanto ancora dovremo aspettare perché il fine primario delle politiche di pari opportunità e della destinazione dei fondi pubblici sia effettivamente questo, si domanda la Spinelli, e a dire la verità ce lo domandiamo anche noi. Io, se siete d'accordo, farei una brevissima pausa musicale, e volevo mettere una canzone che parla proprio della paura che hanno e che incontrano le donne andando di sera in giro durante la notte, ed è un brano bellissimo perché il gruppo è un gruppo che non sta nei circuiti di produzione grandi, è un gruppo di donne lesbiche, si chiamano Le Kick La Luna. E il brano si intitola Dark Street. veramente bella questa canzone, bellissima, io l'adoro, la rimetterò spesso, preparatevi. Allora, vi ricordiamo intanto che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi. Sugli 87-900 MHz, scusate, mi ero dimenticata questo importantissimo particolare. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure direttamente sul sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi. Potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50, fino alla fine della nostra trasmissione. Oppure, come già sapete, potete mandarci un SMS al 338 41 46 682. Oppure, sempre questo numero è un cellulare che rimarrà attivo, ricordo, soltanto fino alla fine della diretta. Infine, potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it. Oppure telefonarci il giovedì sera al Centro Femminista Separatista al numero 06 6864 201. Come sempre gradiamo i trillini, quindi fatevi sentire e mandate messaggini. Ora proseguiamo con la trasmissione. Eccoci qua, ritorniamo a noi con una domanda. Ci chiediamo: il problema degli stupri e della violenza alle donne è una questione culturale o politica? La deputata olandese Ayaan Hirsi Ali si chiede: com'è possibile che nei paesi in cui la nascita di una bambina viene considerata una maledizione assistiamo ad aborti selettivi ed infanticidi senza che le comunità locali ed internazionali intervengano? Com'è possibile che le bambine muoiano per incuria, senza cure e senza cibo, perché sono i maschi a beneficiarne per primi? Com'è possibile che le donne, considerate proprietà degli uomini, vengano uccise per onore o per dote? E le mutilazioni genitali femminili? Ciò che accade alle donne e alle bambine in molti luoghi del pianeta è un genocidio, o meglio ancora, un ginocidio. Tutte le vittime urlano la propria sofferenza. Non è che il mondo non le senta, è che gli esseri umani, sono loro simili, scelgono di non farci caso. È molto più comodo per noi ignorare queste questioni. E dicendo noi, includo anche le donne. Troppo spesso siamo le prime a guardare altrove. Può persino succedere che siamo partecipi, favorendo i nostri figli maschi e non curandoci delle nostre figlie femmine. Tutte queste cifre sono stime. Il computo esatto della violenza contro le donne non è considerato una priorità nella maggior parte dei paesi. Per tornare alla situazione italiana... Scusate, mi dicono dalla regia che c'è un brano musicale. Vogliamo fare un'altra pausa? Ma non lo so, io fatto. Direi di andare oltre. Andiamo oltre? Andiamo oltre. C'era un brano musicale, ma sì, non andiamo, vogliamo mettere? Ma me che siamo... E allora devo leggere io. Noi la scaletta... Perché io ti faccio gli scherzi, Lucilla, quel brano l'abbiamo appena sentito. Vabbè, ma lo so che quello... Lucilla si è confusa. No, c'era qua su, va bene, hai sbagliato. Ho sbagliato, va bene. Allora, siccome c'era Rosina che mi voleva scippare il pezzo che dovevo leggere io... Mi piaceva tanto, lo volevo io. Mi piaceva, io. Ma invece no, lo leggo io. Allora, per tornare alla situazione italiana, e lo dico meglio io di Rosina, vogliamo ribadire ancora una volta che il problema della violenza di genere non è legato alla sicurezza, ma è un fatto di ordine culturale. Il maschio bianco, adulto e lavoratore nel nostro modello sociale, anche di classe media direi, continua ad essere l'unico soggetto depositario di diritti. Le altre parti sociali, donne, bambini, immigrati, sono solo un incidente di percorso. Il fatto che l'opinione pubblica si accanisca e si aggattisca anche ferocemente sull'aspetto della nazionalità straniera dei violentatori lo dimostra alla perfezione. La frase più comune in uso nei casi di stupro è relativa al fatto che altri violentino le nostre donne. Non che lo stupro in sé sia un atto vergognoso e lesivo per le donne. Il possessivo dimostra che la considerazione per le donne è pari a quella che si avrebbero per un oggetto di proprietà. Anche in questo caso si evince che le donne sono considerate alla stregua di una merce. Non è strano il fatto che il cittadino albanese picchiato per vendetta dopo i fatti di Guidonia abbia affermato che capiva la reazione dei maschi italiani, perché se avessero violentato una delle donne in Albania, una delle loro donne in Albania, loro, i maschi albanesi, avrebbero fatto altrettanto. Questa la dice lunga su come gli uomini di qualunque nazionalità condividano un pensiero unico rispetto alle donne. Viene in mente il concetto della roba di verghiana memoria. Il problema quindi, come per esempio ha detto Zingaretti rispetto ai fatti di Guidonia, non è relativo ai cosiddetti non luoghi, poco illuminati, poco strutturati, con poca socialità. Lo dimostra il fatto che, come già detto, la maggioranza degli stupri avviene nelle case, che dovrebbero essere i luoghi per eccellenza. Vuoi leggere te? Vai. Non lo so, ma mi è molto offesa. Va bene, ritorniamo alle parole della Spinelli, la quale dice: questo approccio è devastante, cancella l'aggressore in quanto uomo, cancella la realtà statistica che conferma che la maggior parte degli stupri, delle molestie, delle violenze fisiche e psicologiche avviene tra le mura domestiche, per mano di coniugi, amici, parenti, perché questo ci insegna la cronaca delle ultime settimane, io direi degli ultimi anni, ma insomma. Se è il rumeno o l'extracomunitario a stuprare, ha commesso un crimine e quindi va punito ed espulso. Se invece è lo stimato professore di scuola media ad avere abusato sessualmente di una sua allieva, può riservarsi di non rispondere al GIP e alle accuse della ragazza che trova il coraggio di denunciare. Se è il ragazzino di una famiglia per bene, annebbiato dai fumi di alcol e droga, la vittima lo vuole pure conoscere, lo possiamo perdonare. Sappiamo bene che la questione della divisione sessista nel mondo è innanzitutto un problema economico e quindi politico, e che dunque per mantenere questo stato di fatto ci sia una costruzione culturale organizzata ad hoc. Tant'è vero che gli uomini raccontano qualcosa che è ben diverso dalla realtà. Adesso in Italia la violenza sulle donne viene da fuori e il racconto che ne fanno stravolge completamente i dati che pure per tutti gli anni vengono raccolti sulla violenza. Il racconto, ancora una volta, come dice Spinelli, si costruisce quindi su un modello preciso: la donna vittima che piange sulla sua disgrazia, un protagonista cattivo e straniero e l'eroe buono, politico poliziotto italiano, che a fine stupro arriva a ripristinare l'ordine. La morale è una scontata richiesta di tolleranza zero e controllo sociale. Ma attenzione, il controllo sociale passa proprio sul corpo delle donne, che dovranno dunque ritornare nelle case e comportarsi secondo il modello dettato dall'ordine patriarcale. Come ricorda Adrienne Rich nel suo saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, lo stupro, oltre ad essere un avvertimento alle donne, che vuoi? Alle donne, è il segno del libero accesso degli uomini al loro corpo. A questo punto direi che possiamo mandare un pezzo musicale. Vogliamo mandare Tracy Chapman? Sì, un'informazione tecnica perché mi sono persa un attimo, ho fatto lo scherzo a Lucilla, non ci sto capendo niente pure io. Dici, mandiamo tu subito quell'altra cosa dopo? O mandiamo subito Tracy Chapman e poi ti dico io che cosa fare. Va bene. Ci sono delle sorprese stasera, ve ne sarete resi conto, I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. E questa era la voce di Tracy Chapman, una canzone ormai piuttosto vecchia degli anni Ottanta, una canzone che parla appunto di violenza domestica finita male. Alla fine appunto il poliziotto arriva e dice che è lì per riportare la pace e pensa che tutti quanti abbiano bisogno di riposo, tranne forse la donna, che appunto il riposo ce l'avrà sicuramente eterno. E quindi per tornare alla questione del modello culturale che va a braccetto con la questione strutturale economica, quante e quanti di noi, vogliamo domandarvi, abbiamo sorriso alla proiezione di un altrettanto vecchio film che si chiamava Amore mio aiutami, con Alberto Sordi, l'Albertone nazionale Buonanima, e la splendida Monica Vitti, quando nella famosa scena della spiaggia lei prende un sacco di botte. Vogliamo farvi ascoltare questo il sonoro del film Amore mio, aiutami. Poi quando finisce qua... Non sento niente, no! Mi ritrona tutto! Ma che mi vuoi ammazzare? Adesso no. Se ne do piano! Perché ti trattengo! Oh. Dillo ancora che lo amo! Dillo! Dillo! Sì, che lo amo! Che? Oh, brutta vigliacca, non so più io! Sono diventata una bestia! Tutto il sangue in bocca! Non mi freno più! Male, mamma. Dillo ancora che lo ami! Dillo! Sì, che lo amo! Che? No! Mi fai paura! Oddio! Voglio un altro insieme! Per caso voglio prendere! No, mamma mia, no! No! Te voglio ammazzare! Oh, mamma! Tanto non importa niente! Oddio, mamma! È finita! No, mamma! Oddio! È finita per me! Quanto sangue! È finita, no, carina! Basta! Basta! Dillo ancora che lo ami! Sì, che lo amo! No! Dillo! Dove sei? Che non te vedo! Ai! Ferma! No! No! Basta! Basta, mamma mia! Come mi hai fatto male! Oddio, mamma! Oddio! Oddio! Oddio, mamma! Come mi hai fatto male! Dove sei? Dove sei? Lo amo! Lo amo! Lo amo! Lo amo! Dove sei? Dove sei, Giovanni? Eccomi! Dillo ancora, lo amo! No, non lo amo più. Oh. Appunto, Amore mio aiutami, del 69, per la regia di Alberto Sordi con Monica Vitti, come abbiamo detto. I due interpretano una coppia borghese che vorrebbe essere aperta e moderna, almeno fino a che la moglie non confessa di amare un altro uomo. Dopo il primo momento si scatena in Sordi una gelosia cieca che culmina con la famosissima scena che avete appena ascoltato, e cioè picchia la moglie sulle dune di sabbia di Ostia. Vogliamo sottolineare la violenza del dialogo che avete appena sentito. Lei dice: ma che mi vuoi ammazzare? E ho tutto il sangue in bocca. Lui: adesso te le do piano perché mi trattengo. Sono diventato una bestia e voglio andare in prigione, ti voglio ammazzare. La scena finisce con la corsa in ospedale, che sembra casuale, messa lì per motivi di trama. Invece è molto frequente che il marito accompagni la moglie in ospedale dopo averla picchiata, proprio per impedirle di denunciarlo e per avvalorare la tesi di un'improbabile caduta dalle scale. Invece delle ronde notturne, ci chiediamo, sarebbe più utile forse installare ascensori in tutte le abitazioni? Sordi è sempre stato un maestro nel presentarci temi impegnativi, facendoci però anche sorridere, e in questo film non si smentisce. Ricordiamo anche Io so che tu sai che io so, nel quale interpreta ancora il marito di Monica Vitti. I due ci offrono qui uno spaccato di famiglia borghese, dove la vita dell'unica figlia è rovinata da una violenza subita da un amico del padre. Per superarla, la ragazza inizia a drogarsi. C'è un altro film con una scena per certi versi simile a quella che vi abbiamo appena fatto ascoltare. È Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto del 1974 per la regia di Lina Wertmüller. I due protagonisti, Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, si ritrovano su un'isola deserta. Lei è un'imprenditrice milanese, lui un marinaio siciliano. Lo scontro è inevitabile. Nella sequenza, lui la picchia per tutti i torti che ha subito. È uno scontro proletariato-borghesia, ma soprattutto uomo-donna. Dopo aver percosso la donna, il protagonista fa capire chiaramente di volerla violentare. Lei si dimena, lui è sdraiato sopra di lei. Cerca di tenerla ferma e la insulta fino a quando lei sembra cedere. A questo punto la lascia, affermando che così non va bene. Lei prima deve essere pazza d'amore per lui. Tralasciando la vena ironica del film e la bravura dei protagonisti e della regista, si ricalca ancora lo stereotipo delle donne che vogliono essere violentate, le donne che dicono no quando invece vogliono dire sì. Insomma, è l'amore che ancora nasce dalla violenza, come nel matrimonio riparatore di un tempo. Se ci immedesimiamo in una situazione del genere, se la immaginiamo sulla nostra pelle, non è violenza quella che subisce la Melato? Allora, ci è piaciuta questa, spero sia piaciuta anche a voi. Noi abbiamo pensato di concludere questa trasmissione in maniera, diciamo, tra virgolette, leggera, riportandovi il brano del film e citando altri film in cui la violenza è al centro del racconto, per ritornare a quello che diceva Spinelli, cioè il racconto che viene fatto, dove la violenza sulle donne è normalità. E queste donne non sono poi neanche tanto vittime, tutto sommato. Allora, noi siamo dell'avviso non ci vogliamo neanche definire vittime, ma semmai sopravvissute, come meglio di noi ha detto nel film No Aisha Sadai Simmons. E noi pensiamo di voler riprendere questo discorso e dire: le donne sono sopravvissute, sopravvivono alla violenza costante degli uomini, fisica, psicologica, economica e morale. E diciamo no a tutte le forme di violenza e alla cultura che ce la indora come una pillola. Sì, volevo leggere un messaggio che è arrivato adesso, sempre inerente al discorso della cultura, del problema culturale, come noi da sempre diciamo, no? E il messaggio dice: tempo fa al TG2 dossier una sociologa diceva proprio che lei preferisce il fidanzatino che violenta la fidanzatina piuttosto che lo straniero che violenta una donna italiana, ed è una sociologa, quindi voglio dire. Bene, quindi con questa chicca finale ci dovrebbe dire però chi è questa sociologa, perché le ronde potremmo mandarle a casa sua, le ronde nostre. Io volevo semplicemente chiedere una cortesia a chiunque scriva il messaggio, magari se si firma a noi ci fa piacere anche sapere chi ci invia queste perle di saggezza. Esatto. Dunque, io direi che possiamo chiudere qui, sono le 10:05, il tempo è tiranno, però vi ricordiamo che questa trasmissione andrà in replica martedì prossimo, mentre invece ci risentiremo per la diretta martedì 7 aprile, perché come ormai avrete capito lasciamo il passo, lasciamo lo spazio alle compagne del collettivo Le Connettive. E quindi sì, io volevo chiudere questa trasmissione dove vogliono assolutamente farci passare per vittime, come diceva Lucilla noi invece siamo tutt'altro, ma c'è una canzone che secondo me è significativa e la canta Ginevra Di Marco e si intitola Mala Razza. Allora, sulle note di questa canzone noi salutiamo dando appuntamento alla settimana prossima e quindi buona serata a tutte, ciao. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia lo bastone, tira fuori le denti. Allora, un'ultimissima cosa, ha riscritto la donna che ci ha spedito prima l'SMS con un'aggiunta, dice credo che quella sociologa fosse la moglie di Alberoni, ma non ne sono sicura, scusate ho dimenticato di firmare il messaggio, io sono Paola, allora ciao Paola e grazie di aver scritto, a martedì prossimo. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.